ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Il pomeriggio seguente, Maria fu messa in agitazione da una nuova visita per Martin. Ma a questa seconda volta non perse la testa e fece accomodare Brissenden nella rispettabile grandezza del suo tinello. Brissenden non solo assicurò Martin che era davvero un poeta, ma gli rivelò di esserlo anche lui. Martin fu travolto dalla bellezza dei versi dell'altro e restò sbalordito quando seppe che non aveva mai fatto nessun tentativo per pubblicarli. «La peste sulle loro case», fu la risposta di Brissenden alla proposta di Martin di cercargli un editore. «Ami la bellezza per se stessa», fu l'ammonimento di Brissenden, «e lasci perdere i giornali. Torni alle sue navi, al mare. Questo è il mio consiglio, Martin Eden». Che cosa sta cercando in queste malate e corrotte città degli uomini? È come se lei si suicidasse in ognuno dei giorni che spreca in queste città, cercando di prostituire la bellezza alle necessità del regno delle riviste. Cos'era quello che mi ha citato l'altro giorno? Ah sì, l'uomo, l'ultima delle effimere. Bene, che cosa ha a che fare lei, l'ultima delle effimere, con la fama? Se la otterrà, sarà come un veleno. Secondo me lei è troppo semplice, troppo elementare e troppo razionale per prosperare su simili pappe insipide. Spero che non riesca a vendere ai giornali neppure un solo rigo. La bellezza è l'unico padrone degno di essere servito. La serva e al diavolo la folla. Ah, il successo. Lasci perdere successo e denaro. Si imbarchi domani stesso e torni al suo mare. Non è per il successo, ma per amore, rise Martin. L'amore non sembra trovar posto nel suo cosmo, eh? Nel mio, la bellezza è l'ancella dell'amore. Brissenden gli indirizzò uno sguardo pietoso e ammirato. Ah, lei è così giovane, Martin, ragazzo mio, così giovane. Volerà alto, ma le sue ali sono fatte come la seta più fine, ricoperte dei pigmenti più puri. Non le bruci, ma ovviamente lei le ha già bruciate. C'è bisogno di qualche glorificata gonnella per spiegare il ciclo dell'amore, e questo è il suo unico difetto. «Glorifica l'amore oltre alla gonnella», rise Martin. «La filosofia della pazzia», fu la replica. «E di questo mi sono assicurato quando vagavo tra i sogni dell'Hashish. Ma, attento, queste città borghesi la uccideranno. Guardi quel covo di traditori dove ci siamo incontrati. Chiamarli vegetali ammuffiti e fargli un complimento. Non è possibile restare sani in un'atmosfera simile. È degradante. Non c'è uno solo di loro, uomo o donna, che non sia degradante. Sono tutti stomaci animati, guidati dagli alti impulsi artistici e intellettuali di un mollusco. Brissenden si interruppe all'improvviso e guardò Martin. Allora, in un lampo divinatorio, capì la verità. Sulla sua faccia si dipinsero meraviglia ed orrore. «E tu hai scritto quel fatale ciclo dell'amore per lei, quella pallida, sterile cosa di sesso femminile!» L'istante successivo, la mano destra di Martin era balzata in avanti per serrarsi alla gola di Brissenden, scuotendolo fino a fargli battere i denti. Ma quando Martin guardò la sua vittima negli occhi, vide che non c'era paura. C'era solo un diavoletto curioso e beffardo. Martin ritornò in sé e gettò Brissenden, sempre tenendolo per il collo, lungo disteso sul letto. Solo allora lasciò la presa. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. Fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. Brisinden ansimò e rantolò, poi iniziò a ridacchiare. Se lei avesse spento la fiamma, le sarei stato debitore in eterno, disse. Ho i nervi tesi in questi giorni, si scusò Martin. Spero di non averle fatto male. Beh, ecco, lasci che le versi un nuovo toddy. Ah, tu sei giovane, greco, continuò Brisinden. Mi chiedo se è sufficientemente orgoglioso del suo corpo. Lei è maledettamente forte. Una giovane pantera, un cucciolo di leone. Bene, bene. Sarà lei a dover pagare le conseguenze di quella forza. E cosa vuol dire? Chiese Martin con curiosità, passandogli un bicchiere. Va, mandi giù questo e faccia il bravo. A causa, Brisinden beve un sorso del suo toddy ed ebbe un sorriso di apprezzamento. A causa delle donne. Ah, la faranno penare fino alla morte, così come l'hanno fatta già penare, se non sono nato ieri. È inutile che cerchi di soffocarmi, dirò quello che io ho da dire. Il suo è senza alcun dubbio un amore adolescenziale, ma nel nome della bellezza... La prossima volta cerchi di mostrare meno cattivo gusto. Solo il cielo sa cosa sta cercando in una figlia della borghesia. La lasci perdere. Si scelga una donna grande, eccentrica, ricca di fuoco, che rida della vita, che si faccia beffe della morte e che ami il suo uomo finché le è possibile. Lei ha bisogno di potersi abbandonare alla magnificenza della vita, ha bisogno delle grandi anime libere, di farfalle abbaglianti e non di misere falene grigie. Oh, si stancherà anche di loro, di tutte le cose di sesso femminile, se sarà così fortunato di vivere abbastanza a lungo. Ma non lo sarà. Non tornerà alle sue navi e al mare. Continuerà ad aggirarsi per queste città appestate fino a quando le sue ossa non marciranno. E allora morirà. Può farmi farmi tutte le prediche che vuole, ma non riuscirà a farmi cambiare idea, disse Martin. Dopotutto, lei parla secondo la saggezza del suo temperamento, e la saggezza del mio temperamento è altrettanto indiscutibile della sua. Brissenden e Martin erano in disaccordo sull'amore e sulle riviste e su molte altre cose, ma si piacevano, e da parte di Martin si trattava di un sentimento profondo. Ma Brissenden rimase sempre un enigma. Nonostante la faccia da asceta e il sangue ormai esausto, era apertamente sensuale. Non aveva paura di morire. Nessuno stile di vita sfuggiva alla sua amarezza e al suo cinismo. Eppure, pur morendo, Brissenden amava la vita fino all'ultimo atomo. Era posseduto da una smania di vivere, di provare nuove emozioni, di sfruttare fino all'estremo il mio piccolo spazio nella polvere cosmica da cui sono venuto, come disse una volta lui stesso. Chi o cosa fosse Brissenden? Martin non lo capì mai. Era un uomo privo di passato, il cui futuro era l'imminenza della tomba e il cui presente era un'amara febbre di vivere. Waking you up to close the bar. Martin stava inesorabilmente perdendo la sua battaglia. Per quanto facesse economia, i guadagni procuratigli dal lavoro mercenario non erano sufficienti a bilanciare le spese. Il giorno del ringraziamento lo sorprese con il suo completo nero al negozio dei pegni e, di conseguenza, nell'impossibilità di accettare l'invito a cena a casa dei Morse. Per di più, Ruth non fu soddisfatta dalle sue spiegazioni, cosa che fece precipitare Martin nella disperazione. Le disse allora che avrebbe cercato di venire. Sarebbe andato a San Francisco, all'ufficio del Transcontinental, per raccogliere $5 che gli dovevano e con quei soldi avrebbe riscattato il suo completo. La mattina dopo, Martin chiese 10 centesimi in prestito a Maria. Avrebbe preferito chiederli a Brissenden, ma quello stravagante personaggio era sparito. Erano passate 2 settimane da quando lo aveva visto l'ultima volta, e da allora si era inutilmente lambiccato il cervello alla ricerca di qualcosa che potesse averlo offeso. I 10 centesimi portarono Martin con il traghetto a San Francisco e, mentre risaliva Market Street, pensava alla difficile situazione nella quale si sarebbe trovato se non fosse riuscito a farsi dare i suoi soldi. Non avrebbe avuto modo di tornare ad Oakland e a San Francisco non conosceva nessuno che potesse prestargli altri 10 centesimi. La porta dell'ufficio del Transcontinental era socchiusa, ma Martin, mentre l'apriva, si bloccò, sentendo qualcuno che, all'interno, parlava ad alta voce. «Non è questo il punto, signor Ford?» Ford, come Martin sapeva dalla sua corrispondenza, era il nome dell'editore. «Il punto è, mi può pagare? Denaro contante e subito, voglio dire. Non mi interessano affatto le prospettive del Transcontinental e che cosa pensa di ricavarne l'anno prossimo. Quello che voglio è essere pagato per ciò che faccio. E glielo dico senza tanti giri di parole. Il numero di Natale del Transcontinental non va in stampa fino a quando io non ho i soldi in mano. Le auguro buona giornata. Quando trova il denaro, venga a trovarmi». La porta si spalancò e un uomo, dall'aria infuriata, passò a fianco di Martin e si precipitò lungo il corridoio, mormorando ingiurie con pugni serrati. Martin decise di non entrare immediatamente e indugiò nell'ingresso per un quarto d'ora. Poi aprì la porta e si fece avanti. Era un'esperienza nuova, la prima volta che si trovava all'interno di una casa editrice. Evidentemente i biglietti da visita non erano necessari in quell'ufficio. Un fattorino si addentrò in una stanza più interna per riferire che un uomo voleva vedere il signor Ford. Quando tornò, si fermò a metà stanza e fece un cenno a Martin da dove si trovava per condurlo nell'ufficio privato, nel santuario dell'editoria. Martin fu dapprima impressionato dal disordine e dalla confusione che vi regnava, poi notò un uomo con le basette ma dall'aria giovane, seduto a una scrivania saracinesca, che lo guardava incuriosito. Martin si meravigliò per l'espressione calma della sua faccia. Era chiaro che la discussione con il tipografo non aveva influito sulla sua serenità. «Io sono Martin Eden», così diede inizio alla conversazione, «e voglio i miei $5», gli sarebbe piaciuto aggiungere. Quel giovane era l'editore che per primo aveva accettato uno dei suoi lavori e Martin, date le circostanze, non voleva spaventarlo. Con sua grande sorpresa, il signor Ford fece un balzo ed esclamò «Davvero?». L'attimo successivo stringeva affettuosamente la mano di Martin con entrambe le sue. «Non so dirle come sono felice di vederla, signor Eden. Mi sono chiesto spesso che aspetto potesse avere». A questo punto si allontanò da Martin quanto gli permetteva la lunghezza delle braccia e fece scorrere gli occhi scintillanti sul secondo miglior completo di Martin. Quel completo era in realtà il peggiore di quelli che possedeva, consunto al di là di ogni possibilità di rammendo, sebbene i pantaloni mostrassero la perfetta piega che Martin gli aveva impresso con il ferro di Maria. «Le confesso che l'avevo immaginata molto più anziano di quanto lei sia. Il suo racconto, sa, mostra una tale ampiezza e un vigore, una tale maturità e profondità di pensiero. Un capolavoro, quel racconto. Mi è bastato leggere mezza dozzina di righe per capirlo. Lasci che le racconti della prima volta che l'ho letto. No. Mi permetta di presentarla allo staff». Sempre parlando, il signor Ford lo condusse nell'ufficio della redazione, dove lo presentò al coeditore, il signor White, un esile fragile ometto dalle basette rade e setose, le cui mani sembravano insolitamente fredde, come se fosse intirizzito. E il signor Hans, qui, il signor Eden. Ah, il signor Hans è il nostro amministratore, sa. Martin si ritrovò a stringere la mano di un uomo calvo, dallo sguardo irrequieto, la cui faccia sembrava piuttosto giovane, almeno dal poco che si poteva vederne, dato che per la maggior parte era ricoperta da una barba candida, rifinita con cura. Gliela tagliava sua moglie ogni domenica, giorno in cui la consorte gli radeva anche l'attaccatura dei capelli sul collo. I tre uomini circondarono Martin, parlando tutti insieme con ammirazione, finché lui ebbe l'impressione che avessero scommesso a chi parlava più in fretta. «Ci siamo spesso chiesti perché non venisse a trovarci», stava dicendo il signor White. «Io vivo al di là della baia e non avevo i soldi per il biglietto», rispose Martin bruscamente, volendo mostrargli quanto fosse impellente il suo bisogno di denaro. «Certo», pensava Martin, «i miei vestiti della festa dovrebbero pubblicizzare con sufficiente eloquenza la mia povertà». Di tanto in tanto, ogni volta che se ne offriva l'opportunità, Martin alludeva allo scopo della sua visita, ma i suoi ammiratori sembravano essere sordi. Cantavano le sue lodi, gli raccontavano quali impressioni avevano ricevuto leggendo per la prima volta il suo racconto e che cosa ne avevano pensato poi, e anche ciò che ne pensavano le loro mogli, le loro famiglie, ma non accennarono neppure ad una velata intenzione di pagargli quel racconto. «Le ho raccontato della prima volta che l'ho letto», disse il signor Ford. «Naturalmente no. Stavo tornando da New York verso la costa occidentale e quando il treno si è fermato ad Ogden, il nuovo inserviente ha portato a bordo il numero appena uscito del Transcontinental». «Mio Dio», pensò Martin, «viaggi in una lussuosa carrozza Pullman mentre io faccio la fame per quei 5 miserabili dollari che mi devi». Un'ondata di rabbia travolse Martin. L'ingiustizia inflittagli dal Transcontinental gli apparve colossale. Sentì tutto il peso dei terribili mesi di sofferenze, di fame e privazioni. E la fame, che ancora aveva, si risvegliò e lo attanagliò, ricordandogli che non aveva mangiato niente dal giorno prima e che, anche allora, aveva mangiato ben poco. In quell'attimo vide rosso. Quelle creature non compivano rapine, ma vili furti con destrezza. Grazie a menzogne e promesse non mantenute, gli avevano sottratto il suo racconto. Bene, gliel'avrebbe fatta vedere. Martin prese una decisione irremovibile. Non avrebbe lasciato quell'ufficio senza i suoi soldi. D'altra parte, se non riusciva ad averli, non aveva modo di ritornare ad Auckland. Martin riprese a fatica il controllo di sé, ma non prima che un lampo ferino, apparso per un attimo nei suoi occhi, turbasse e intimorisse i tre uomini. Vennero ancora più loquaci di prima. Il signor Ford iniziò di nuovo a raccontargli della prima volta in cui aveva letto il suono delle campane, mentre il signor Hans tentava di esporre di nuovo il positivo giudizio di sua nipote su quel racconto, nipote che era insegnante nella città di Almeida. «Vi dirò perché sono venuto», disse infine Martin. «Sono venuto per farmi pagare quel racconto che vi è piaciuto così tanto. Mi avevate promesso, credo, $5 da pagarsi alla pubblicazione». Il signor Ford, con un'espressione di immediata e felice condiscendenza sui mobili tratti della faccia, fece per portare una mano alla tasca, ma subito affermò di aver lasciato i soldi a casa e si girò di scatto verso il signor Hans, il quale ne fu evidentemente contrariato. Martin, quando vide il braccio dell'uomo contrarsi come per proteggere la tasca dei pantaloni, capì dove si trovavano i soldi. «Mi dispiace», disse signor Hans, «ma ho pagato il tipografo meno di un'ora fa. Gli ho dovuto dare tutto il contante che avevo. Certo, sono stato imprudente ad averne così poco, ma il tipografo mi ha preso proprio alla sprovvista quando mi ha chiesto di poter avere come favore un anticipo. Sa, la fattura non era ancora scaduta». I due uomini rivolsero allora uno sguardo fiducioso al signor White. Ma quel gentiluomo rise e si strinse nelle spalle. Lui aveva comunque la coscienza pulita. Era entrato al Transcontinental per diventare un esperto della letteratura pubblicata dai giornali e invece aveva finito per conoscerne soprattutto gli aspetti economici. Il Transcontinental gli doveva 4 mesi di salario, ma White era ben consapevole del fatto che il tipografo dovesse essere soddisfatto prima dell'editore associato. «Ci avete trovato in una situazione proprio assurda, signor Eden», fu il lieve preambolo del signor Ford. «Tutta sbatataggine, ti assicuro. Ma ora le dico che cosa faremo, eh? Le manderemo un assegno per posta subito domani mattina. Lei, signor Hans, ha l'indirizzo del signor Eden, non è vero?» «Sì». Il signor Hans aveva l'indirizzo e per prima cosa, l'indomani mattina, l'assegno sarebbe stato inviato a destinazione. Martin aveva una conoscenza sommaria delle banche e degli assegni, ma non vedeva alcun motivo perché, se potevano dargli l'assegno l'indomani, non potessero darglielo anche quel giorno stesso. «Allora siamo d'accordo, signor Eden, le invieremo l'assegno domani mattina», concluse il signor Ford. «Ne ho bisogno oggi», rispose Martin impassibile. «Per colpa di alcune sfortunate circostanze, se lei fosse capitato qui in un altro momento», iniziò a dire con voce suadente il signor Ford, ma fu interrotto dal signor Hans, il quale mostrò di possedere non solo uno sguardo nervoso, ma anche la relativa impazienza. «Il signor Ford le ha già spiegato la situazione», disse in tono aspro, «e così ho fatto io. L'assegno le sarà inviato». «Anch'io mi sono spiegato», lo interruppe Martin, «e vi ho detto che voglio i miei soldi adesso. Il tono brusco dell'amministratore aveva avuto l'effetto di far accelerare i battiti del cuore di Martin, il quale ora lo controllava a vista, poiché aveva scoperto che la cassa contanti del Transcontinental riposava nella tasca dei pantaloni di quel gentiluomo. «Siamo davvero spiacenti», iniziò a dire il signor Ford, ma in quello stesso momento, con un gesto di impazienza, il signor Hans si volse come se fosse sul punto di lasciare la stanza. Nello stesso istante, Martin gli saltò addosso, afferrandolo per la gola con una mano in modo tale che la barba bianca dell'uomo, senza perdere la sua forma perfetta, puntò verso il soffitto con un angolo di 45 gradi. Il signor White e il signor Ford, impietriti, videro scuotere il loro amministratore come fosse uno scendiletto di Astrakhan. «Cacciali fuori, venerabile avversario di giovani e promettenti talenti!» lo esortò Martin. «Cacciali fuori o te li farò sputare io, anche se fossero tutti nichelini!» Poi, rivolgendosi ai due spettatori paralizzati, «Tenetevene fuori! Se vi intromettete, qualcuno potrebbe farsi molto male!» Il signor Hans stava soffocando e poté palesare il suo gelido consenso alla richiesta solo quando Martin mollò la presa. In totale, dopo ripetute operazioni di ricerca, le tasche dei pantaloni del signor Hans cedettero $4.15. «Rivoltale», gli ordinò Martin. Ne caddero altri 10 centesimi. Martin, per maggior sicurezza, contò una seconda volta il bottino del suo saccheggio. «E ora tocca a te», gridò al signor Ford. «Voglio altri 75 centesimi!» Il signor Ford non indugiò neppure un istante e rovistò nelle proprie tasche ricavandone 60 centesimi. «Sicuro che non ci sia altro?» domandò Martin minaccioso mentre si impossessava della piccola somma. «Cos'hai nelle tasche del panciotto?» Per provare la sua buona fede, il signor Ford rivoltò completamente due tasche e una di esse lasciò cadere a terra una striscia di cartone. Il direttore la raccolse e stava per rimettersela in tasca quando Martin gridò: «Che cos'è? Un biglietto del traghetto? Dammelo. Vale 10 centesimi. Te li terrò buoni. Adesso ho $4.95, compreso il biglietto. Mi dovete ancora 5 centesimi. Martin guardò con durezza il signor White e vide quella fragile creatura già nell'atto di porgergli un nichelino. «Grazie», disse Martin, rivolgendosi a tutte e tre, «vi auguro una buona giornata». «Ladro!» gli ringhiò dietro il signor Hans. «Borseggiatori da strada», fu la risposta di Martin, che uscì sbattendo la porta. Martin era euforico, così euforico che quando si ricordò dei $15 dovutogli da Hornet per la perla, decise di recarsi immediatamente anche nella redazione di quel giornale per cercare di riscuoterli. Ma The Hornet era gestito da un gruppo di giovani ben sbarbati e allenati, veri bucanieri che derubavano tutti di tutto senza trascurarsi reciprocamente. Dopo la rottura di alcuni elementi dell'arredamento, l'editore, atleta ai tempi dell'università, abilmente assistito dall'amministratore, da un agente pubblicitario e da un fattorino, riuscì ad allontanare Martin dall'ufficio e di accelerarne, grazie all'impulso iniziale, la discesa della prima rampa di scale. «Torni pure, signor Eden, saremo felici di rivederla in qualsiasi momento», gli risero dietro dal pianerottolo superiore. Martin fece una smorfia mentre si rimetteva in piedi. «Ah, quelli del Transcontinental erano una banda di capre. Al confronto voi siete dei pugili professionisti». Altre risate accolsero quell'uscita. «Devo dire, signor Eden», gridò dall'alto l'editore di The Hornet, «che per essere un poeta lei sa difendersi proprio bene. Dove ha imparato quel destro, se posso chiederglielo?» «Dove lei ha imparato quel mezzo gancio», rispose Martin. «Ad ogni modo le verrà un bell'occhio nero. Spero che il suo collo non si blocchi», gli augurò in cambio l'editore, pieno di sollecitudine. «A che ne dice? Se andassimo tutti insieme a berci sopra qualche cosa?» «Ah, non sul collo, ovviamente, ma sul nostro piccolo scontro». «Vengo solo perché avete vinto», fu il sì di Martin. E ladri e derubato bevvero insieme, convenendo in amicizia che la battaglia era andata al più forte e che i $15 di La Perla appartenevano di diritto alla redazione di The Hornet. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it